Blu Radio Veneto. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. Siamo al secondo appuntamento della nostra rubrica quindicinale, dopo il primo incontro con Don Lorenzo Celi, direttore dell'Ufficio di Pastorale dell'Educazione e della Scuola della Diocesi di Padova. Allarghiamo lo sguardo all'Ufficio Scolastico Provinciale, o Provveditorato, come si chiamava all'epoca. Abbiamo contattato il direttore Andrea Bergamo, iniziando a dialogare con lui a partire dal primo mese di scuola, dal bilancio che se ne può fare, anche in riferimento alla cosiddetta legge sulla buona scuola. Questo è stato un anno, sta diventando un anno straordinario, perché per la prima volta abbiamo applicato in qualche modo dall'inizio dell'anno la legge 107, cosiddetta legge sulla buona scuola. Purtroppo non tutto è andato a buon fine come si pensava, ci sono state delle difficoltà dovute un pochettino all'applicazione di un cosiddetto algoritmo, che cioè un programma di trasferimento, che un programma informatico che ha aiutato il Ministero a sistemare le persone e che ha creato qualche difficoltà, quindi per effetto un po' della novità, perché la prima novità è quella che tutti i docenti assunti con la legge buona scuola sono stati obbligati a fare domanda di trasferimento, ma su ambito nazionale, cioè mentre prima si faceva in ambito provinciale e al massimo interprovinciale, ora invece su ambito nazionale, quindi una complessità maggiore. Per effetto di questo aspetto, per effetto dell'algoritmo che forse a livello informatico ha creato qualche falla, ci siamo trovati un po' stiamo verificando adesso qualche leggera falla, ritardando quello che un tempo era invece che si faceva i primi giorni dell'anno scolastico, ritardando le supplenze annuali. Quindi le supplenze annuali ora le stiamo facendo, credo che in tutto il Veneto entro la fine di questa settimana vadano a posto, e quindi noi siamo stati un mese senza supplenti annuali, ma non possiamo dire che nelle scuole non c'erano i professori, non c'erano gli insegnanti, e nel frattempo gli uffici competenti hanno autorizzato i presidi ad assumere docenti supplenti temporanei con la formula fino all'avente diritto. Quindi sostanzialmente noi abbiamo le scuole che hanno assunto i supplenti sull'avente diritto, cosa vuol dire? Cioè hanno una nomina che è una nomina a tempo, cioè si blocca quando nella scuola arriveranno gli aventi diritto, cioè quelli che otterranno le supplenze che diamo in questi giorni. Questo è, diciamo, il problema più grosso che si è verificato quest'anno. Lei ha parlato giustamente degli insegnanti, che sono però solo una delle componenti importanti della scuola. C'è il personale amministrativo e ci sono soprattutto gli studenti, che sono al centro dei programmi scolastici. Lei, immagino, sia un po' in contatto con tanti dirigenti, con tanti professori. Che percezione ha nei vari livelli di scuola, appunto, di come i ragazzi stanno vivendo anche questa ennesima, per noi che abbiamo un po' di anni sulle spalle, riforma? Sì, io credo che i ragazzi, bisogna distinguere, non si stiano ancora rendendo conto che c'è per loro una riforma che mette invece i ragazzi al centro della, come deve essere, al centro dell'offerta formativa e didattica. Diciamo che i ragazzi probabilmente, se noi chiediamo stragrande maggioranza agli studenti, credo che difficilmente si accorgano che è cambiato qualcosa, perché da un certo punto di vista è apparentemente non è cambiato nulla per quanto riguarda la didattica, l'insegnamento, eccetera. In realtà la legge 107 è una legge nuova, una legge molto, come dire, innovativa, introduce alcuni elementi di cambio sostanziale. Uno, per esempio, in assoluto, uno su tutti, per quanto riguarda le scuole superiori, secondarie, come usiamo il vecchio nome, scuola superiore, il nome nuovo è scuola secondaria di secondo grado, la legge 107 ha previsto in un comma il discorso dell'alternanza scuola-lavoro, quindi alternanza scuola-lavoro rendendo obbligatorio un percorso di formazione in azienda per tutti gli studenti. Questo percorso di formazione obbligatoria negli ambienti di lavoro che gli industriali ci avevano sempre chiesto e che noi a livello di Veneto, a livello di sperimentazione, stavamo già facendo dal 2002, dal 2003, e quindi c'è nulla di nuovo per noi che abbiamo in qualche modo anticipato la legge, e adesso è diventato legge dello Stato e prevede per gli istituti tecnici, gli istituti professionali, nel triennio, terza, quarta e quinta, ben 400 ore di alternanza scuola-lavoro, quindi un massiccio inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, ma con valutazione, quindi non è che vanno là a vedere che cosa fa l'ambiente produttivo, vanno là cercando di imparare il più possibile le cose che vedono. E novità assoluta, ha introdotto l'obbligo delle 200 ore anche per il CEI. È chiaro, uno studente che fa il liceo, è chiaro, ve lo dicono tutti quelli che fanno orientamento, la sua destinazione è continuare nello studio, andare all'università, ma nulla vieta che prima di andare all'università abbia fatto anche un'esperienza lavorativa negli ambienti pubblici, nei settori tecnici, nelle segreterie, eccetera, eccetera, perché comunque anche lo studente liceale prima o dopo dovrà inserirsi in un ambiente di lavoro. C'è una grossa novità che dovrebbe migliorare anche i rapporti degli studenti e che quest'anno l'abbiamo utilizzata poco, è la chiamata diretta. Il dirigente scolastico, cioè il preside, che cerca dei docenti con alcune caratteristiche. D'altra parte il docente dice: io mi riconosco in queste indicazioni che vengono dalla scuola XY e voglio candidarmi, l'intenzione è buona. E vedremo che cosa succede. A conclusione del discorso è da dire che la legge è ancora incompiuta, noi stiamo attendendo i decreti delegati che dovranno in qualche modo regolamentare quella che è cioè dare migliori opportunità, creare anche le condizioni perché la legge sia applicata, è tutto ovviamente a vantaggio degli studenti, del personale e anche delle famiglie. Grazie al dottor Andrea Bergamo, direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova. L'appuntamento con la nostra rubrica dedicata al mondo della scuola è fra 15 giorni. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.